F. Ascolta e indica se nella frase senti V, W o V e W. Se vuoi, trascrivi le frasi. 1. Il cartone racconta le avventure dell'uomo invisibile. 2. Ci hai dato una risposta ovvia. 3. Non mi piace questo tappeto ovale. 4. Non ho voglia di pensare al trasloco. 5. Siamo arrivati sani e salvi. 6. Che invenzione eccezionale. 7. Hai avvisato tutti? 8. Non ho potuto frenare. Il gatto ha attraversato la strada all'improvviso.